lanciarti qua in frequenza, va bene. Insomma, che parlo con la Sardegna, il testo, faccio il collegamento, Pasquale, qua la Gio Tauro ti saluta, cambio. Ciao Pasquale, ascolti Sassari, buonasera. Avanti, chiama Pasquale, perché... un attimo solamente. Avanti Pasquale, mi ascolti da Sassari, Giulio da Sassari. Sì, sì, ti ascolto, capito? È molto oscillante, quindi alcuni passaggi purtroppo non li copio. Sicuramente la stessa cosa farà da te, capito? Alcuni passaggi dei miei non li copi. Però ti ripeto, Pasquale qua, coordinato Gioia Tauro, provincia di Reggio di Calabria, cambio. Ok Pasquale, sì, sì, anche tu mi stai arrivando così con QSB, molto QSB, perché si sa, la propagazione purtroppo non è stabile al 100%, per cui riesco ad ascoltarti, però diciamo che in linea di massima va bene così, non c'è problema. Ti segnali a volte 9 e in altri momenti magari scendi anche a 4, però la radio quando il segnale è forte, è la radio è perfetta. La radio 5 perfetta, chiara, bella pulita. Avanti ancora Pasquale, vai. Positivo, positivo, vai, tutto oggi, vai. Va bene, va bene. Com'è il QRZ? Il QRZ è il dollaro, Dollaro, dalla città di Sassari città. Sì, sì, sì, positivo, dollaro. QRA Giulio e QRZ a dollaro. La città è Sassari Nord Sardegna. Il Sassari Nord della Sardegna, tutto reggero. Va bene, vai, anche perché io qua purtroppo devo staccare, devo fare quell'attività, non lo so, non ti arriva qua la modulazione, per via della propagazione. Comunque io ti saluto, va bene, grazie del collegamento di nuovo, buona propagazione qua, insomma, coordinate Gioia Tauro, ti saluta, dollaro, cambio. Ok Pasquale, grazie anche a te per il collegamento, ti ripeto il mio nome, Giulio, ripeto ancora, Giulio, QRZ a dollaro. Va bene, grazie ancora per il collegamento anche per te. In quest'ultimo passaggio mi sei arrivato oltre il 9 di segnale. Ciao Pasquale, grazie ancora, alle prossime, ciao. Ok, Giulio se non ho capito male. Ok Pasquale, ok, ci sentiamo alle prossime allora, alle prossime, ciao Pasquale, grazie ancora per il collegamento, ciao ciao. C'è nessuno su canale 10? C'è qualcuno qui a Sassari su canale 10? Sì, avanti. Sì, sentiamo il senso, però la radio non è bella chiara, è un pochino complessa. Ma adesso la radio è troppo bassa, si è arrivato leggermente più basso anche di segnale, ma niente di più, adesso la radio è troppo bassa. Sempre bassa Francesco, troppo bassa la radio, no? Qui è brutta, non è chiara, non è assolutamente chiara, guarda, per cui sì, capisco quello che dici, però non è chiara la radio, è molto complessa e dunque non lo so, forse, ma cosa sta usando? Il lineare che stai usando? Se sta usando il lineare, se sta usando il lineare. Sì, Francesco, la radio è brutta, la radio è bruttissima, non va bene. Devi mettere meno ingresso con lineare. Meno ingresso, Francesco, non lineare di 10 watt o 5, dagli meno, dagli 3-4 watt massimo, e poi vedrai che la radio sia bella. Avanti, Marino, tu sì. Ciao, buonasera a tutti, io sono il sotto che sto aspettando gente. Sentito sopra e salutarsi, dai, ci vediamo dopo, grazie, ciao. Ok, ciao, vai. Grazie per essere stato a salutare, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, vai. Francesco, avanti. capito, grazie. Sì, ma ripeto, capire capisco, quello che dici lo capisco, no, non c'è problema. Però la radio non è la tua solita radio bella, come ti ho sentito anche l'ultima volta, che avevi una bella radio, bella, potente, anche forte. E oggi invece no, ce l'hai bassa come radio, non è bassissima, però non è nemmeno, hai le vede che tu solitamente ti fai sentire. Per cui non capisco, forse il baracchino quello è diverso, e allora sarà per quello. Ma mi stavi dicendo che ha il microfono normale, vabbè, è un microfono normale, però nonostante che il microfono è normale, ma non è chiara la modulazione, io non ti sento chiaro. Sembra sasso, giù. Cosa hai detto? Che sembra sasso. Sì, è stato, infatti sto uscendo avanti. Beh, ok, d'accordo, Francesco. D'accordo, Francesco. Sì, è stato, sei stato. Mio, anche un amico l'ha confermato che sei stato, Francesco. Per cui, ripeto, no. Ti ho sentito molto meglio l'altra volta. Va bene, dai, comunque. Vedi tu. E vai, vai. Allora, che mi dici giù? Tutto a posto, sì. Sì, va lì. Tutto a posto, niente in ordine. Sono possibile. Dico, tutto a posto, ti sei preso, sì, per quella faccenda. Perché la riconosco, me l'ha chiesto, e poi già, se lo sento, già lo chiedo, già glielo chiedo. Avanti. Ok, sì. Allora, già mi sono depresso. Solo che devo fare della terapia una volta alla settimana. Devo andare dal giorno 13 a fare una volta alla settimana la terapia. Poi la fuori partenza, piano piano. Fuori partenza, io ho un collega che 3 mesi in malattia, per un'infezione, e fa lo stesso lavoro mio, no? Cioè io sono andato a truccare, questo qui lavora in via Napoli. Ha preso un'infezione, diciamo, dall'urina del soffo. Dall'urina del soffo, prima gli ha preso il re e più il polmone, è stato 10 giorni con ossigeno all'ospedale. Come ha fatto? Perché? Ma come ha fatto? Qualche tocco l'ha mossicato, come ha fatto? Ma negativo, siccome questo qua fuma, secondo me, cosa è successo? Ha preso quello che doveva prendere, la busta, e c'aveva i guanti, poi magari c'aveva la sigaretta in bocca, secondo me ha toccato i guanti con la sigaretta, la saliva e la beccata, ho capito? E ha iniziato a sudare, insomma, l'ho preso per un pelo. Mancato respiro, non respirava più, capito? Per un paio è stato 10 giorni sotto ossigeno più, e stava facendo una cura, è rimasto più di 1 mese e mezzo ricoverato. Fino adesso è quasi un altro mese in malattia ancora, e non si è ripreso. Poi non bastava questo, abbiamo fatto nuovamente l'attacco, e il risultato è una piccola cosa nella prostata e così via, già hai capito, dai. Ho capito, sì. Purtroppo le malattie si prendono qui a debellarle, che passa tempo e non sempre si possono anche debellare, ma speriamo bene, auguriamogli tanta fortuna a questo qui, perché si sa, le persone hanno sempre necessità di mandare un augurio buono. Va bene, dai, comunque è l'uscita della vita. Vabbè, allora, e tu, oggi stai arrivando benissimo qua, ma con la radio bella, chiara, pulita. Da portando, meno male, sto usando l'MD4 e ho abbassato tutto, è freddo, ma sono un po' caldo con l'altro, con il magno, ho fatto qualche collegamento, ho succedato un amico in Spagna, così via, l'avevo già sentito, e ci siamo risentiti. Tutto qua, diciamo, ce l'avete fatto per andare in pensione, capito? Se l'avete fatto come si chiama? Adesso non ricordo, cazzo, la pieno cazzo si chiama. Ci ha fatto i conteggi, sono il sistema, io aspetto altri 2 anni, così vado con la macchina, non potevo andare con il 100, vado con la macchina, se non lavoro in più, e così via. E invece mica ha pettegato questa capo di infezione. Ha detto che non resta più nulla, la moglie l'ha convinto, tanto finisce la malattia, ha fatto i conteggi e se ne va in pensione adesso. Poi io faccio anche una domanda per la malattia lavorativa, come si chiama, diciamo, cioè, particolare, e l'infortunio nella bocciata, perché questa questione qua la possiamo prendere quasi tutti quanti, capito, che è stata bocciata. Lavoratore è sempre quello che ci perde, senza farlo. Tocca sempre al lavoratore, purtroppo è così. Ma comunque, speriamo bene, quello che ti dico. Beh, certo, va bene adesso, se appena che rientra, fa la domanda e se ne va in pensione anche lui, così almeno ha finito di soffrire. Si vuole, si vuole gli ultimi anni, e così, godendosi la pensione. Questo è un bravo capentiere, questa è l'abituato in cantiere giù, è un asino lavorando, non guarda l'orario, niente, è un asinello, lo metti e cammina, non è stato una base e faccio i soldi, capito? Proprio non guarda l'orario, niente, proprio un bravo lavoratore, alla vecchia maniera, diciamo, dai, il capentiere alla vecchia maniera. No, era già arrivato, sono arrivato nel 63, 64 anni, cioè, mi stavo aspettando, avevo detto, adesso aspetto, vado un anno in più, vado 2 anni, così me ne vado con la massima, così prendo qualcosa in più, perché non ho niente da dire, perché ognuno cerca di portare qualcosa in più in casa, ma io ho detto, approfitta adesso, gli ho detto, Pietro, approfitta che intanto per questi anni campiamo, non ci siamo e non ci siamo, siamo in passaggio, un collega giovane, non c'aveva che l'età mia, 53 anni, è andato in corso con la moto in crociera, è andato ma non è tornato, è tornato solo lei, un infarto è sceso, è morto, anche questo qui aveva tutti i contributi, perché aveva fatto la guardia di finanza, poi ha chiesto di me che è venuto a lavorare con noi, comunque guardia di finanza sono stati i contributi raddoppi, poteva andare in pensione, e lui invece no, rimango un po' con i soldi che noi viviamo 13esima, 14esima, ogni anno ci andava in crociera, capito? Invece quest'anno è andato nuovamente, però non è tornato. Purtroppo la vita è crudele, sì, molte volte la vita è crudele, e cosa ci vuoi fare? Siamo sempre legati tutti quanti, hanno un filo, ed è un filo abbastanza sottile, lo vivo lui, lo vivo qua, per spagnere la circolazione, purtroppo è così, ma comunque, cosa vuoi dire? Oi. cosa volevo dire? L'antenna è sempre quella solita, no? quella che sta preparata, cosa tra l'altro, uno va e non lavora, non mi ricordo nemmeno, ma chi si è preparato con l'antenna? Non l'avete cambiata? No, l'ho cambiata, l'ho cambiata, perché quella da Chiso l'avevo soltata, perché l'avevo messa in un palo, che a fianco c'era l'antenna della televisione, con le parabole di mia figlia. Solo avevo messo un filante leggero, con un vibrava, facevo uscire fuori fase la parabola di internet. Comunque ho portato tutto. Mentre stavo scendendo, cosa è successo? Cioè era piazzata, troppo alta. Domani, per cadere io l'ho buttata giù io a lei e si è rotto tutto il girotondo e si è rotto. No, un collega, ne era una, 8 radiali, l'ho piazzata, sono nato problemi, c'era un periodo che mi dava problemi, capito? Mi dava. E l'altezza, quasi 6 mesi qualcosa, c'ha una bella carica trasparente, una bella carica di vedi tutta spezia di rame. Cosa succede? Sicuramente quando c'era fuori il reticello il segnale saliva e accendeva, non faceva contatto. E una volta ero scesa, mi ha ripiazzato quanto, non ho ripiazzato, non volete macello. Allora l'ho scesa, mi ha dato la mano Antonello, l'ho scesa, ho smontato tutti i radiali, bene puliti, ho preso la moretta, ho legato bene la piastra, ho smontato il petto della protezione della carica e ho visto che è entrata leggermente umida, l'ho vista, dunque l'abbiamo fatta pulita, asciugata e l'ho tutta ingrassata con la vaselina, capito? Tutta bella sigillata, con le stazionali 1 e 1, perché c'è lo strumento inserito e lo sto controllando. Adesso va bene adesso. Questo è 8 materiali, va benissimo. Sì, un attimo. Sì, certo, no, già va bene, già va bene. Ma io ho sempre quell'auto costruita, tipo game master, cara pesca, dai. che sono trovato il originale, invece l'ha aiutata, sono stato stupido e poi me la sono dovuta costruire io. E è sempre bassa, è sempre bassa, nella parte bassa della casa, non è nella parte alta. Ho messo nel terrazzino lì, ho messo il faro, ho messo invece lì il tubo, il faro, e la stessa sta lì. Però la dovevi spostare, metterla nella parte alta, no, c'era prima la tua tubo, che sarebbe almeno un 6 metri più in alto di dove adesso, allora uscire bene, uscire. Perché qua dove adesso va bene lo stesso, mi ha anche poco fatto, sto parlando con uno di Gioia Tauro, però è un'altra situazione, quando la metti in alto è tutta un'altra musica. E però devo dire che rende molto bene. Io sono convinto che quando la metto al posto dove c'era la batteria a tubo, che rende quasi la batteria a tubo, se non addirittura è più, figura. C'è stato qualcuno che mi ha chiamato, avanti chi mi ha chiamato, si è stancato, se ne è andato. Capito, vai. E dunque sto funzionando con quello. E pensare che ce l'avevo originale, l'antenna originale, e poi io me l'ho dovuta costruire, simile all'originale. E andava bene giù questa va un buon modo. Vabbè, io il segnale non so funzionare perché siamo vicini, prima arriva a fondo scala, bisogna chiedere il segnale da uno in fuori, ma l'ha già chiesto, ma come segnale è ultimo come segnale, già va bene, caspita. Ma l'ho vista l'altro giorno, mi sono passato, mi forse dovrei passare domani sopra casa tua col camion, perché io faccio la plastica e faccio sempre quell'attività, quel magazzino che c'è più sopra di te, diciamo, là, nel deposito di Sanna con le mantonelle, che faccio la plastica. E sono passato, l'ho vista, ma già va bene giù, già va bene, anzi è abbastanza bene. Avanti chi vuole pensare, si è stancato, avanti giù. E niente, poi l'ho truccata perché gli ho messo il nastro sull'alta rosso, nella bobina gli ho messo il nastro sull'alta rosso e sembra quello originale, invece non è assolutamente originale, perché è autocostruita, ma comunque, è andata la tessi, non è un problema. Già va bene, anche adesso me ne faccio un'altra, l'ho già anche iniziata, figurati. Me ne faccio un'altra, me ne faccio così, fa curiosità, intanto di averla, così la provo, vediamo un po' se riesce anche quella. Tanto dopo pochi soldi, la canapetta l'ho pagata 16 euro circa, 15,90 una cosa del genere, lunga 7 metri. E adesso devo comprare il cavo, ce l'ho un pezzo di cavo a 10,58, ma la voglio fare con l'H155, come ho fatto questa praticamente, con l'H155, così va meglio come cavo. E poi me ne faccio un'altra, da voi, che cosa va a servire, però voglio arrivare qua, non è il problema, non me ne chiede il pane. Esatto, ma va bene, guarda, con calma te ne porto una, c'è una freccia, non ce l'hai presa e così ti vede per fare una me con calma, dai, senza fretta. Ti volevo chiedere una cosa, giù, ma c'è la linea morta? Sì, è morta 10 giorni fa più o meno. 12 giorni fa è morta, sì. È morta da poco, purtroppo, vabbè, 90 anni aveva, Però stava a chiamare la prima, avevo avuto un paio di volte, due hit avevo avuto, e dunque era praticamente dalla sedia, non reggeva più, era sempre a letto, eccetera, eccetera. Quando la metteva dalla sedia a rotelle, la figlia capiva, sì, però non riusciva nemmeno a parlare, capito? Ormai la donna era partita. Adesso dice che gli è arrivato un suo corpo e è finita. 10 giorni fa più o meno, è morta. Perché un giorno ero in ascolto, poi volevo entrare, non sta gente, ma cos'è andata, dopo poi ce l'ho tardi, dunque, mettere delle casse, mi dispiace, poverina, peccato, mi dispiace che, sa, facevo anch'io, 90 anni, magari andarci io 90 anni, però sano, non malato. E vabbè, e la figlia è rimasta lì oppure si è scesa nell'appartamento? Sì, no, è sempre lì. Non se ne vanno lì nell'appartamento, non capisco per quale motivo, comunque non lo so, forse hanno dei problemi, ha dei problemi, non lo so. Adesso in pratica è rimasta sola, questa ragazza è rimasta sola, vabbè, c'è il fidanzato, quello che vuoi, però i familiari non le ha più. È rimasta sola perché il padre era morto e i due fratelli sono morti, la madre è morta e è rimasta sola con la famiglia. Poi naturalmente avrà parenti tipo, che ne so, zii, cugini, questi ne avrà, non lo so. Ma è mai morto anche quello che la fidanza, che faceva la rappresentante, che la fidanzata la fine di come si chiama, gli occhi, proprio lui è morto lì. Quello è morto, saranno già 2 o 3 anni. Quando l'avevano trovato morto a casa, l'avevano trovato insieme al cane, nell'appartamento lì, no, della cooperativa dei ferrovieri. Era morto roba di 15 o 20 giorni. La gente del palazzo se ne è accorta dall'odore che usciva da quella casa, perché giustamente c'era il morto, già 15 o 20 giorni della morto. E anche lui aveva avuto due ictus, anche lui, infatti alle volte camminava con bastone, alle volte non reggeva nemmeno in piedi, e poi io ho saputo, poi bisogna essere vero, che questo qui per la respirazione si aveva preso un vito di bene, si aveva preso, fatto stare, è venuto al suo corpo ed è morto così da solo a casa. Ed è morto anche il cane, perché aveva un cane, aveva anche, evidentemente non. Il cane è morto di fame, perché essendo morto lui, il cane non aveva più niente da mangiare, ed è morto anche il cane. Hanno aperto la porta ai pompieri, hanno trovato lui e il cane, tutti e due morti lì. Stesso, poverino, l'altro fratello invece era morto lo stesso, ma è rimasta sua sorella, che fine, proprio, la una famiglia è tutta lì. Vabbè, siamo di passaggio, dai, avanti. Infatti è così, purtroppo si sa. Sì, avevano iniziato prima il marito, il signorino era morto, ma quello è già morto, insomma, 20 anni, 25 anni saranno. L'altro figlio sarà morto all'incirca una quindicina di anni, no, anche di più di 15 anni, forse sono anche 20 che è morto Mario. E poi 2 o 3 anni fa è morto Marco, è morto, e adesso è morta la Bax. E c'è rimasta Giuditta e Bax, con fidanzato. Ancora vive lì, stamattina l'ho vista, ma è molto, molto giù, molto giù. Si vede che è abbattuta moltissimo, ma chiaramente la madre è morta da poco. Poi avrà problemi di lavoro, eccetera, tu lo sai. Perché prima, essendo parente della madre, in pratica andavano avanti proprio col sostentamento della madre. Adesso il problema è diverso, perché sicuramente gliel'hanno tagliato. E allora sarà anche per quello, non lo so, ma lì com'è la situazione, però so che sono in brutte condizioni, dai. Sono cose belle comunque, per carità. Sua sorella. Ogni tanto vedo il fratello, lo zio, diciamo, il fratello della madre, come capitava di fronte, ti ricordi cos'era il fratello della madre, se non sbaglio? Sì, quello lì è il fratello della madre, sì. Quello lì, anche se uno è notte che lui ha assai tanto il gabbo, per carità. Brava persona, sì, quello che vuoi, però è uno che non si tratta molto, nemmeno con la sorella si trattava molto, capito? E anche lui è per conto suo, ha delle idee strane. So che faceva una specie di regista per fare spettacoli dei bambini, faceva ultimamente, perché l'avevo letto anche sui giornali, l'avevo letto che si interessava di far fare spettacoli ai bambini. Poi non lo so, questo qui è proprio è una persona che non mi ha mai creato simpatia, a me, la verità. Sì, brava persona, non è che sia cattivo, non è nemmeno un delinquente, per carità, poi no. Però ha delle idee tutte strane, contro Giulio, penso, questa è una mia idea, che in passato abbia avuto anche qualche problema di droga, non lo so, ma sicuramente sì, cioè, dico questo perché frequentava delle persone che avevano quelle sembianze lì, non, per quello che ti sto dicendo, ma guarda che alle volte la convenzione è lecita alle volte. In effetti è un'altra impressione anche a me, sinceramente, non adesso, ma prima giù, ma prima mi dava l'impressione che era mezzo pizzicato, no, perché non vedevo spesso in piazza Santa Caterina, siccome c'è un ufficio grande dove sono i ragazzi, dove studiano roba di riprese, cinema, questa da qua, e c'è un periodo che lo vedevo spesso in quell'ufficio, diciamo, là. Dopo un'ultima volta l'ho visto un po' assente, volevo passarla, molte volte salutava, molte volte passava a destra, era un po' a là, quando Carlo De Biasi saluta a destra. Ah, infatti è fatto così, forse ha l'idea di che credeva al superuomo, ma tutto sommato è uno per carità, vabbè comunque, ma cosa vuoi dire? Anche lui ha dei problemi, comunque, carità, già lo sappiamo. So che aveva ritirato tanti soldi, aveva tirato, poi li ha sperperati così, no? per una situazione, non so di che cosa, boh. So che gli erano toccati tanti soldi, questa becca della nipote, a livello di un miliardo, mi tanto mi ha fatto la cifra. E li ha sperperati così. Questo è quello che mi aveva raccontato un giorno a nipote. Adesso non so se è vero, se sono bugie, o già ne so. Quello che mi ha raccontato ti sto dicendo. Quindi anche lui è separato dalla moglie, anche lui. Non so adesso se è con qualche altra ragazza, qualche altra donna, non so dire, perché prima era sposato, dai, sposato. Non viveva più che altro, ma si è separato da quella e aveva qualche figlio grande, anche adesso già ne aveva uno acquisito perché era di me, prima che si mettesse con lui, e che si può immaginare, vabbè comunque a fare i suoi. Sì, no, quella storia dei soldi l'avevo sentito anch'io tanti anni fa, l'avevo sentito, che aveva richiamato un po' i soldi e via, ma che si avevi tutti mangiati e tanti che investire, ma vabbè che è una persona strana, diciamo, bella, brava persona, niente a dire, però era un po' strano, tutta contro Giulio, anche come si vestiva, perché tra l'altro si vede come gli piace, era tipo hippie, diciamo, così è giù. Sì, infatti, prima sì, frequentava degli amici, frequentava lo stesso la donna che aveva, era una di quelle, dunque frequentava questa compagnia, queste ragazze, forse faceva già con me, eccetera, con questo, e poi però si erano persi di vista, si erano persi, no? Non si erano più frequentati, e adesso anche da poco. Allora, qualche mese fa l'avevo visto in televisione, che l'avevo anche intervistato, Teresa l'avevo intervistato perché sta facendo il commediante, che insegna ai bambini a fare commedie, queste cose qua. Adesso non lo so cosa mi dica. Sì, ma per me è sempre stato strano, ripeto, brava persona, non è un delinquente, questo no, però va a vedere strane, tutta contro Giulio. Perché io mi ricordo che loro stavano parlando, ripeto, anni passati, allora, ancora la Cialina aveva ancora dei corsi, più di quanti anni sto parlando, e doveva partire all'estero, non so, la cavolo a fare, insomma, l'uomo di letto stava parlando, poi è sparito, poi è ritornato, poi è sparito, poi siamo presi di vista e basta, non so che studi stava facendo all'estero, ma è possibile? Non lo so, ma adesso è considerato, tu pensa che non è andato nemmeno al funerale della sorella, per prenditi quanto è strana questa persona. Adesso questa ragazza che si trova sola, come minimo avrebbe dovuto dargli una mano, tanto più che la casa dove visto che mi stava segnalino di fronte, no? Se l'ha presa lui, se l'aveva segnalino l'aveva lasciata lui, avete considerato che quando era morta la madre era rimasto solo, e dunque con la casa, cosa ha fatto? Se l'ha venduta a 220 milioni, l'aveva venduto quel buco di terreno lì, e hanno costruito quel palazzo, gli aveva detto, e dunque hanno anche guadagnato, avevano venduto le imprese del Porto Torres, che poi questi soldi a quanto sembra se li ha sperperati, ma insomma è strano, però poi in seguito ha avuto, non so per quale motivo, se per una questione di malattia o che, so che aveva ritirato roba di 1 miliardo di indennizzo e li ha sperperati così, poi non so se gli è rimasto qualcosa, ma stando quello che mi ha detto la nipote, se li aveva sperperati proprio senza testa, ecco, li ha buttati in pratica. Sono la Daedo Camarillo là. Ok, giù, è arrivata la persona che stava aspettando, dunque dove chiude. Se in caso, se mi sbrigo ci sentiamo più tardi, là. Grazie della chiacchierata, a più tardi sei con Cile, giù, ciao. Ok, ciao Mari, ciao, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo, saluti in casa, ciao. Tutto ricambiato giù, ciao. Sì, avanti. Questa è sembra un po' più pulita di prima, va bene, va meglio insomma, ecco. Va meglio Francesco. Ok, sì, questa va meglio Francesco, è più pulito questo. L'altro usciva al compresso, usciva, era come stato, là, e usciva prima. Adesso questo già va meglio, questo già è più chiaro. Già va bene questo. Stavo detto un po' calcio, il segnale era 7, era 7 il segnale. Aspetta che guardo adesso, prova di nuovo. Ehi, vabbè, ha calato mezzo punto, sì, in mezzo, dai. Già va bene lo stesso. Ok, ciao Francesco, ciao. A me già mi sente bene in radio, sì? Va bene, ci sentiamo allora, dai. Ciao Francesco, alla prossima, ciao. Di cazzo, detto che sei di là. A chi